E più ti penso, e più mi manchi, ti vedo coi miei occhi stanchi. Anch'io triste e sconsolato, come non son stato mai senza te. Potessi rivedere.